Non so se l'hanno mai beccato a quello. Cosa succede qua? Vabbè, cosa vuoi qua? Troppo casino. Lambert Eyes sta dappertutto, sia nella vita reale che nella vita virtuale. Sono rialzato, guarda, se vi ascolti meglio, Franco. Sì, subito segnale, sei quasi, credo 9:30, Ok, allora Luca, ci sono da tutte le parti, non pensare in ambiente amatoriale, anche lì vedo ci sono maleducazioni, gente che si bisticcia, ci sono le persone veramente educate, corrette, i vecchi radioamatori, ne ho sentito uno ieri, ma una persona veramente in gamba, c'ha la patente da 60, stava raccontando i primissimi nominativi che hanno dato in Italia, ma quando ascolti quelle persone è un piacere, e poi trovi maleducati che si mettono a parlare uno sopra l'altro, a fare pernacchie, a fischiare, cioè c'è un conte se si mettono a parlarci sopra e lo fanno apposta così per disturbare, quello è brutto, non mi piace, come la 27 in certi momenti diventa peggio la 27. Lo so, vabbè, questa radioattiva non mi piace, Vabbè, questo è le 10:50 a me, aspetta, ti metto l'altro, dai, che così ti accontentate un secondo. Fra, non mi piace, a te fra. Gli mancano un po' di toni alti, è un po', non so, un po' anonima, dai, come modulazione. Sì, magari va bene sulle altre frequenze, sulla VHF, ma qua... Guarda, comunque anch'io a volte faccio ascolto su quel link, anzi facevo, perché già sono parecchi mesi che non va più quel link, e ho notato che c'era un sacco di tipo portantisti, perché lì impegnati, una volta che tu gli impegni i ripetitori, loro non riescono più a parlare, capito? Questo è l'altro, al solito, troppo alto? Abbassa. Aspetta un peluzzino, guarda un po', abbassato un peluzzo. Benissimo. Ok, questo era il solito microfono, anzi questo volevo dire è quello che ha copiato Fabrizio, un MC60, che era scoppiato col fulmine, è esploso, e l'ha rifatto il circuito, l'ha rifatto uguale, ma già funziona bene, con questa radio va più che bene. No, ma Luca è pieno di gente, ti sto dicendo, ci sono gente veramente piacevole da ascoltare, competente, professori, ingegneri, avete certa gente, non dico di che zone sono, che molte sono su certe zone, che si mettono a fare prepotenti, si bisticciano, tu qua, tu là, peggio certo, per certi casi, peggio la 27, io infatti poi molte volte, ma anche in mande V&U mi succedono queste cose. Vabbè, Marco, l'ho detto prima, alla fine lì siamo nel virtuale, come in rete, no? E i pezzi di merda ci sono dappertutto, cosa vuoi fare? Comunque Luca, c'è una novità, non so se viene a scusami un attimo, ma Franco, che dovrà una notizia a Luca in anteprima, stanno proponendo, almeno c'è già la proposta di legge, però le associazioni degli amatori si stanno tirando indietro, di far dare la patente agli ARI, alle sezioni ARI competenti, per cui non ci sarà più bisogno di andare a Cagliari, per fare quello si organizzerà, allora l'associazione dovrà organizzare un corso, tutti i corsisti, tipo scuola guida, e dare esame direttamente nella sezione con un rappresentante dei radioamatori, uno del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, e un'altra persona, non so chi c'è, se non mi ricordo, faranno tutto quanto dentro all'interno della sezione. Ma è roba questo? Questo è già pronta la legge, però stiamo facendo un coso, stiamo cercando di boicottarla l'associazione degli amatori, perché se no dice saranno la patente a cani e pulci, succederà come ricordi le revisioni delle macchine, che prima la faceva la motorizzazione e poi quando hanno iniziato a farle anche all'esterno qualcuno faceva cose sporche, però le cose sporche le fanno anche all'interno dei ministeri, se per quello, per cui lasciamo perdere, se uno ha l'incontro giusto da fare, come quando ci sono l'esame di laurea o l'esame di diploma, c'è quello corrotto, il professore corrotto ti dà già le risposte già pronte, come l'esame della patente eccetera, e qualcuno si sta lamentando dei radioamatori di questo fatto qua, la legge di pagare 5 euro probabilmente la tolgono, che quella è ridicola, perché l'hanno tolta i CB di 12 euro e i radioamatori continuano a pagare i 5 euro che non si capisce a cosa servono. Buono sapersi. Non sono l'assicurazione per le antenne, no? Cosa hai detto, scusami? Ma se io, perché anch'io li pago l'assicurazione per le antenne? È un contributo che questo qua dovrebbe essere utilizzato per spese di non so che cosa, che non c'entra niente col discorso del radioamatore. Al Ministero dello Sviluppo Economico questi soldi 5 euro che non sono nulla paragonati a tutti i radioamatori, fa che ci siano 100.000 radioamatori, quanto possono essere tutti questi soldi? Perché se vogliamo pagare le spese del mantenimento della sezione e dell'ispettorato, e poi non so a che cosa erano destinati questi questi soldi qua. Prima quando c'era anche i CB, 12 euro, diciamo, considerando tutti i CB c'era qualcosina, ma là, questi 5 euro sono ridicoli. No, stavo cercando il versamento, vedere cosa c'è scritto, aspetta un po'. Non ho capito cosa hai detto, Franco. No, sto cercando il versamento, questi delle 5 euro che pago io. Io mi ricordo che c'è l'assicurazione sulle antenne. No, non c'entra niente, l'assicurazione delle antenne se ti iscrivi all'ARI nazionali, che costa 78 euro l'iscrizione annuale, ti danno la rivista eccetera, contemplata anche l'assicurazione sulle antenne, no, ma quella è una cosa fuori dal discorso dei 5 euro. Ma io pago 15 all'anno. Ma dove? Sto cercando di vedere qui dove è interessata, ma si chiama Amateur Radio Society, via Smara 3, Cosenza, la quota sociale ha comprese assicurazione antenne, ho pagato 15 euro. Ma è un'associazione quella, come può essere Rari, quella è un'associazione, anche una sezione di Rari, di qualche sezione, che molte volte si fanno un accordo con qualche compagnia di assicurazione e dicono ai nostri soci, è come quando tu vai a giocare a pallone, nel tesserino c'è anche l'assicurazione, compresa se ti fai male. Probabilmente hanno fatto qualche cosa, qualche accordo con qualche, come si chiama, qualche compagnia di assicurazione, ma è al di fuori, non c'entra niente, il discorso della tassa governativa, quella è un'altra cosa. Stiamo parlando di due cose diverse, come se ti iscrivi all'ARI, io mi sono fatto l'iscrizione da poco tra l'altro, e ti danno la cosiddetta assicurazione, speriamo che non serva mai. Sì, io infatti la mia è proprio sulla finestra, se c'è il ferro per tendere, guai, mi cade tutto giù, magari. Non dico che ammazzo qualcuno, però un po' di danno lo potrei fare. Sì, no, meglio che ci sia, dai, no, non è che fanno povero a chiunque 15 euro, diciamo, si possono fare assolutamente, ci mancherebbe. Però questo dei 5 euro è una tassa ridicola, gli hai tolto i 12 euro ai tasse CB e PMR e lasciate le armatori che per certi versi sono della protezione civile, si operano in condizioni di calamità, terremoti, eccetera, eccetera, per cui teoricamente dovrebbero essere loro che pagassero in situazioni gravi, che pagassero i radioamatori, invece pagano dare 5 euro, che è una cosa vergognosa, 5 euro, cioè stiamo parlando di spiccioli, non è che dice devi pagare 50 euro all'anno, ma 5 euro, la cosa è che devo dire, avanti lui. Vabbè, non mi fanno cumulo, no, lo paghi tu, lo paga quello, lo paga quell'altro, arrivano al gruzzoletto. Sì, sì, no, sto dicendo, magari in tutta Italia saranno 50.000 euro, cosa vuol dire, però a livello di fare qualche intervento, qualche investimento di qualche cosa, per dire, quelli del bollo servono per, le bollo parliamo delle macchine, servono per migliorare la viabilità delle strade, mettere i segnali nuovi, sistemare le gallerie, il bollo delle auto, ma il bollo dei radioamatori, quando tu ricavi 50.000 euro in un anno, e beh, a cosa ne va? Infatti, si vede le strade come sono. Oh, vabbè che non rimangarmi nessuno, lo sai, la gente si ha bulli arretrati, perché ogni tanto ogni 4-5 anni c'è una sanatoria, annullate tutti i bulli, ne paghi uno e te ne annullano 10. Io ho pagato l'altro giorno 370, mi sembra che ho pagato, sto ancora piangendo. Guarda, io non parliamo, io sono una persona molto scuposa, pago l'ultima virgola, e se ti dico una cosa, sfido a chiunque, io ho l'autorizzazione per montare l'antenna parabolica, chiesta all'ispettorato a me a Roma, a cosa, come cavolo si chiama, a Cagliari, nessuno ne ha mai fatto, perché tutti piazzavano l'antenna, io avevo chiesto l'autorizzazione per montare l'antenna. Proprio detto, c'era una legge che ti diceva chi la voleva, io l'ho fatta, per dire, i bulli del carrello della banca l'ho pagato per decenni, alla fine mi hanno detto, ma perché l'hai pagato se non lo stavi utilizzando, perché l'ha già superato, non so dopo quanti anni vengono considerate tasse di circolazione, non più tasse di bolli, io l'ho pagata per decine di anni, però mi sono rimasto che in quel caso sono stato scemo. Di nuovo a te Luca. Sì, non sono messa le cose, roba. Succede, però guarda, io non l'avrei levata la tassa del baracchino. Zette mala! E mi, Antonio mi. Te vecchia legge, Guga! Vieni, a vai a vendere. Mi Antonio l'avrei fatta pagare la tassa del baracchino, 50 euro al mese. Va. Zitto. Mi stavi rispondendo male, dai, tanto. Eia, sto zitto. Non te la voglio dire, ma cosa, no, non andare. Dai, che non mi ha mai offeso, a me non ti preoccupare, non mi sono problemi. Ok, dai, vai Franco a te. Ciao Antonio, comunque mi hai sentito. Il colpo in canna Antonio, no, vabbè, dai. È un po' colorito Antonio, come... come dialettica, dai, vero tu? Beh, stavo dicendo, ma con tutti i poveracci che bisogna questa frequenza, cazzo, che proprio a me. No, perché ne sei entrato in prepotenza, la multa ti mettevo, per quello sto dicendo un altro. Ah. No, per niente, ma a livello simpatico naturalmente ci mancherebbe, anzi, meglio che ce ne sia di gente, che sennò si deve, come si chiama? C'è stato un periodo che stavano entrando un sacco di gente, eppure ogni tanto accendo, ma sento poco e niente, forse non coincidono i tempi, ma qualche volta di sfuggita ho sentito qualcuno. Ma ripeto, anche nelle altre bande mie, per sentire gente deve andare nelle HF a divertirsi, però anche nelle V e nelle U non mi più nessuno. A me mi sembra di un maracchino sopra, ma mi pare che sia regolo 87 per il momento, no? E via. Nel socco di microfono si sente, e beh, il capo me ne è andato tanto. Intendi. Quello lì è quello che ho fatto arrivare l'accoso, me l'ha rufinato, fallo per un amico, perché non la volevano fare me. Poi non so se sia costruito o comprato o fatto quello lì, perché dice no, non abbiamo te, vado a un amico carissimo, eccetera, eccetera. Alla fine me l'ha mandato, siccome ho chiesto delle cose per me e ce l'ha messo in mezzo. Ma sono contento, va. Sempre bene accetto tutta la situazione. Perché se ti metti a farlo a perdere tempo ti compri 2 PL, quello 20 euro il costato, la spedizione era insieme a quello messo, per cui ti hai risparmiato la spedizione. Poi con Claudio non ci sono problemi, ha detto no, bisogna farlo per Antonio, adesso ci mancherebbe, merita, non ci sono problemi. Di nuovo a te, Franco. Io mi ho ordinato un maschio e una femmina per il microfono, mi ho fatto una prolunghetta con un pezzo di cavo spiralato, perché quando lo uso in macchina era un po' corto, perché la parata ce l'ho sotto, diciamo sotto i piedi, sotto le gambe del passeggero, dai. Ma in macchina sai cosa fai, Fra? Hai visto quelle girate che si mettono per i microfoni? Quelli da computer? Quella computer che c'hanno quella specie di morsetto sotto e te lo allunghi, te lo giri, l'hai mai visto? Mio figlio ce l'ha collegato, diciamo, alla scrivania. Prendi uno di quello, te lo metti per dire nel cruscotto a fianco, ti metti il comando del TTT nell'acceleratore, quando devi fare da schiacci l'acceleratore. E per quello per dire, con un Vox vai in automatico. E fai anche col Vox. No, io me ne ho preso 2 di questi qui, c'ho i pedali da mettere, me li sempre, sempre fare i collegamenti, perché alla fine non c'ho più spazio di questi microfoni in mezzo ai birri, perché ci sono diverse radio, e faccio come l'ha fatto più di uno, ti metti il pedale e non ce l'hai in mezzo ai piedi, ce l'hai in alto, ti arriva dall'alto il microfono, tipo gelato di Romagna e così. Ok, Luca, a te. Eia, ma ci già vai bene, Robe, ma quel microfono lo usavi prima, non mi piace. C'ho questa modulazione strana. Vabbè, a te ti piace il microfono da combattimento, Luca. Io sono di quelli salottieri, tranquilli. Comunque, gli altri microfoni, dai, nella cosa c'ho l'MC85, 2 MC60 e un MC50, e più c'ho la Dunis. Adesso per il momento lascio qua questo. Oh, l'altro giorno c'era Franco di Sosso, stava provando uno Shure come il mio, però non stava uscendo bene. Lo Schubert. Vabbè, Anto, cosa stai combinando? Oggi stai travagliando me. La bombola, ma con il cespugliatore. 20 euro mi sono fatto. E cazzo me ne fotti, andate. Allora, una pizza in casa già va bene, con la famiglia. No, anche io sono rientrato, erano le 6, ormai sto facendo orario continuato dalle 6 del mattino, esco da casa e rientro alle 6 del pomeriggio, dai. Non so, a me vado a travagliare, me la fatti lunga, perché mi dai di là. Basta che mi dai tu, basta che mi dai i soldi e io lavoro sempre. Serate le stai facendo? Ovviamente come tutti, anch'io, se mi alleso di lavoro. Adesso dovrei partire, mi. No, fare i serati. E sono già attivo, sono già attivo, capito? L'impianto è già caldo, mi. Adesso iniziano i matrimoni, le crisi, se riesci a avere il giusto giuro, basta iniziare 2 o 3, ti fanno pubblicità, scambio di voci per dire, mica me l'ha fatto Antonio la cosa di mia figlia al compleanno, mi ha fatto la crisi, ma alla fine bastano 3 o 4 persone e si moltiplica. E ho già mandato anche con su Facebook, adesso se parto col karaoke ne farò. adesso mi devo caricare tutto, eccetera, eccetera. Sono quasi pronto, quasi pronto. E via, si inizia alla grande. E poi ti fa lo spettacolo, devi mettere anche le ballerine in topless, cioè ti fa il ribulo e altri di più niente, tu. No, fammi pensare ai nomi. E vabbè, Sara, se rimane a casa al giorno. Sarà mezza. Come manda un rumore di zoma, questa reggipetta, tu. Natalino, Natalino conosce un po' di giri, cioè io Natalino busca qualcuno. Natalino è drogato, Natalino! Ma non c'è Natalino, ok? Io mi trovo a Natalino, la tirò. No, gli ho fatto la battuta per farlo uscire, invece non mi ha risposto. Ma c'è cuocomane! E Claudio invece? È un altro drogato. Però si sta curando, dai, lui si sta disintossicando. Ah, mi sa, sta mangiando. Lui sta rotendo il porcetto, era di grilli. Intendo, vabbè, che sfaccenda, vabbè, anima di niente, vabbè, canale 5. Assurdo, vabbè. Ma è Brumonte? Ah? E allora? Brumonte, c'è. E allora, Brumonte, allora? Anche lui ammazza, ragazzi, Quello sta rischiando la pelle veramente, già un paio di volte gli è andata bene. Una volta l'hanno pensato come un'anguilla. Più di una volta l'hanno picchiato, infatti io non so come fare a rischiare. Quando vai in certi posti devi essere preparato, cioè andare con qualcuno vicino, ma lì se trovi lo sfidiato, dice come arriva, la tira di due colpi. Deve essere che lo pagano bene, Robè. Ma me l'ha fatto. Oh, c'è da dire che quello delle Iene, Giuseppe Gigi Peralta, quello è andato a coso, in Colombia da quei cosi, non so se l'avete vista quella puntata di quei tipi trafficanti, mamma mia dove è andato. Allora di Alghero, no, Peralta. Sì, sì, quello ha lavorato per le Costa Smeralda di Urbe, ha fatto servizi allucinati, veramente in gamba, uno che ha le palle quadrate. E hanno chiamato le Iene, quando ci sono cose difficili, l'unico che va è lui, nessuno ci va, se vuole andare in qualcosa malfamato, in posti loffi. Ma è andato in Colombia, tu devi essere entrato in questa specie di favelas, che per entrare, non so chi cavolo ha dovuto scomodare, e quando se l'hanno portato l'hanno bendato di lì dentro, e poi hanno fatto parlare con questi trafficanti, gente che ammazzato gente con le pistole come si chiama, sparato da tutte le parti, cose da paura. Lì la vita non ha nessun valore. Già lo so, ma lui diciamo, anche se non è proprio di origine sarda, però è sardo cotto, da sardo trapiantato, non penso che molti si attrivino a uscirsi in quel posto. Chi c'è, qualcuno sotto? Vabbè, Brumonte, vabbè, a Milano, bicicletta, con la telecamera sul casco, cazzo, assurdo, ma non vuoi alcune iPad, ma ci conto rubateli, ma qualcuno c'è sotto, è propagazione, roba. Anche io sentivo quasi 8, era, cioè 8, più di 8, avanti che vuole 3 su 10, no, adesso non sento niente, poco fa sentivo qualcuno parlare, magari era propagazione, non c'è problema, è coso, perché quell'altro programma, non so se lo vedete, è scuola di botte, non l'avete mai visto? No, e dov'è? Se cercate su YouTube c'è quello, come si chiama, Mattia Faraoni, campione, pluricampione di arti marziali, quelle MMA, eccetera, e per l'altro Simone Cicalone, che sono due bestie, nel senso, furti veramente, e vanno in tutti i posti più malfamati d'Italia, a iniziare le stazioni, i luoghi dove, e tu vedi dove vanno questa gente, oh, li vogliono bene, tutti i quartieri spagnoli, le vere a Napoli, Torbaglioni, Camacesia, tutti i posti d'Italia, in Sardegna non sono ancora venuti, per dire vari hanno andare a Latidossi, o a Santa Maria di Pisa, ma vanno, poi diventano amici, e parlano proprio dei quartieri, ma sono delle persone, a parte che ci sanno difendere, però fino adesso non hanno trovato nessuno che le ha rotto le scatole, ma vanno in certi posti e raccontano la verità, quella vera, e vanno di lì, perché molte volte raccontano delle balle, perché sono tutti di lì, hanno fatto la stazione dei Termini, che noi pensiamo, cosa c'è la stazione dei Termini, che neanche ce lo immaginiamo. No, non l'ho mai visto, ma solo sul web o anche in TV la danno? No, no, su web sono, tu cerchi a scuola di botte e ci sono tutte le puntate, ma ci sono cose veramente interessanti e toccanti, persone che vedi, gente di storia che ha raccontato di gente pluripluggi educata che è uscita dal carcere e ti dà dei consigli, attenzione io ho sbagliato, ho fatto ma gente che ha ammazzato gente, gente che ha fatto rapine, cose brutte, che poi alla fine loro, la puntata è bella per questa perché poi si trovano questi proprio delinquenti, per dire quello, il brasiliano, non so se l'avete mai visto in televisione. No. No, no, comunque adesso ho preso un appunto, non l'ho scritto qui in agenda. Scuola di botte, qui quando ho tempo me lo controllo. Mamma mia, brutta persona quella. E questi sono a quei livelli, nel senso non a quei livelli, nel senso sono persone tranquille, danno dei consigli, però non bisticciati, se ti trovi in certe occasioni, è gente che sono campioni europei di MMA, non stiamo parlando di Cipito, gente che mai va forte, eppure evitate sempre le risse, se c'è qualcosa allontanatevi, chiamate la polizia, evitate, ma sempre il contatto, dice basta un attimo, quello tira fuori un coltello e perdi la vita. È sempre meglio evitare, detto la gente che mal va forte, questi sono campioni di gente, uno sarà 1,90 m quello lì che è una bestia, e l'altro lui il campione di pugilato lo stesso, però hanno sempre cercato di pacificare le persone quando vanno in questi quartieri, nei campamenti di zingari, sono andati che stava scoppiando una mega guerra con quelli del vicino, di God, hanno cercato un po' di camarà, hanno fatto venire tutti i capi degli zingari, la cosa sta facendo molto interessante, chi c'ha tempo se lo guarda. Sicuramente loro ci stanno a difendere, però bisogna stare sempre attenti. Avanti Lu. Luca. Eia, aspetta un attimo che abbasso qua. Sono Vicento. Già sono qua, che ne sono? Jay Kids ancora. E domani un'altra passata di caldo qui ragazzi. Come si chiama? Scuola di botte. Di Goi, dimmi. Ieri sono andato a Trentino, voi dovevate vedere cosa c'era, la gente a Trentino, piena di strada, a parte era una giornata stupenda, calda, bellissima, c'era il mare, raramente ho visto i colori a Trentino così belli, puliti, il cielo era quell'azzurro bello, bello pieno, e aveva un colore sul mare da paura, era da cartolina. Ma era già pieno di gente? Pieno, di più, nel senso non c'era uno spillo di parcheggio, a parte vabbè parcheggio in chiave non mi so, ma sembrava in piena estate. La Perosa era completamente, sono andato la sera, non il pomeriggio, cioè non la sera nel senso alle 5, però sono state alle 3:30, 4, c'era il mondo, come che fosse agosto. Io a volte me la guardo, non so se conosci la webcam di Trentino, quella che c'è a Roccaruia, la conosci? Sì, guardati, su Morcate, lì, siccome cambia ogni 20 minuti mi sembra, e tu vedi il movimento della gente, come arriva e come se torna indietro, se c'è la cosa, la freccia, nel senso puoi tornare indietro nelle ore, e tu vedi come si riempie la sfera. Sì, no, io mi vado alla diretta, perché la utilizzo per andare a pescare, quindi guardo come si infrangono le onde, e quindi so se c'è un po' di schiuma a mare di fuori, là. Allora, se tu ti metti, l'applicazione si chiama Morecast, è scritto, delle previsioni meteorologiche, ci sono le webcam di tutto il mondo, tu vuoi vedere, vai su Antartide, ci sono tutte le webcam, vuoi vedere la Sardegna, ci sono tutte le webcam, è bello per quello. E poi ce n'è un'altra, diciamo, quella che hai detto tu, del Roccaruia, e poi ce n'è una all'Ilo Titanic, l'hai visto? Quella lì è 24 ore su 24, anche la notte è collegata, bellissima, proprio quella è attaccata al mare. Sì, ce ne sono anche Alghero. Addirittura ce n'era un Alghero qualche anno fa che tu prendevi possesso e la comandavi per 3 minuti, quindi potevi zoomare e spostarla a destra e a sinistra, ma è una cosa allucinante. E magari era di qualcuno privato che ce l'aveva, io quella che ho qua in casa mia ce l'ho, dove vado da qualunque parte, addirittura parla quella lì, gli puoi mandare messaggi se per dire c'hai animali a casa, cosa l'ho pagata una fesseria, ma una bomba, ti segue, tu ti alzi, siccome mi ho memorizzata in una posizione normalmente, io come mi alzo o mi giro, adesso ho girato la testa e si è girata e mi ha seguito con la testa, è tutta, cioè, l'intelligenza artificiale, l'ho pagata magari 35 euro, ma tu devi vedere la definizione di questa immagine qua, io l'ho messa in un angolo della stanza delle radio, fissa, quando non ci sono io rimane fissa, come tu ti muovi, ti alzi, ti segue, cacchio. E non lo sapevo all'inizio, che fa, ma che cacchio è successo, mi sono anche spaventato, e non sembrava che ti stesse seguendo, cacchio. E invece è così la telecamera. Sì, avrà un sensore di presenza, vede il movimento e si punta. Sì, ma io pensavo una volta che l'hai memorizzata, rimane ferma così, invece niente, adesso io ho girato la faccia verso di lei, tu e si è girata lì, si sente e si muove, ma tu vedi la definizione che c'ha, perché è un'altra definizione HD, ma tu vedi le immagini particolari, poi puoi zoomare, si può vedere le immagini che ha registrato prima, tra parentesi queste cose sono molto delicate per la privacy, perché noi non sappiamo niente, ma queste cose sono tutta roba cinese, sono tutti connessi a un server cinese, tutte le immagini che abbiamo noi che vanno a finire in questo server. Io ho visto una volta, questo tipo era un installatore, ma guardava di tutto e di più, non ti dico che cosa perché è roba d'arresto proprio. Allora, se tu guardi il report, qualche puntata, te la puoi cercare su internet, l'aeroporto di Fiumicino, non so quante telecamere, ci sono qualche centinaio di telecamere, le ha montate questa ditta che fa capo alla Huawei, che è il leader mondiale su queste cose di videosorveglianza, di cose, e sono tutte connesse a una rete. E l'ho fatto vedere, tra l'altro l'azienda che l'ha installata è italiana. Sono a finire, stava cercando di uscire le immagini, di togliere fuori dalla cosa, dall'aeroporto e mandarle a un server fuori, però c'è un sistema di protezione che non glielo permetteva, e stava 24 ore su 24 continuamente cercando di craccare, di passare da questa via d'uscita per mandare le immagini fuori. Ce ne sono accorti, subito hanno bloccato tutte. Alla RAI, l'hanno fatto vedere, tutte le telecamere della RAI, infatti le hanno tutte hackerate, le hanno connesse, alla fine a un coso di fuori, straniero che andava a finire in Cina. Con queste cose tutte bisogna stare attenti, le nostre immagini potrebbero andare a finire in mani di chissà chi. Avanti Antonio. Una volta mi sono collegato con le cose di benzina, c'è anche a Brattavola, c'è. Sì, ne abbiamo parecchie in Sardegna, sia in montagna che al mare, dai. Anche a Sassari, ce ne sono anche a Sassari puntate verso la città. Sì, ce ne sono tante, ci sono quelle meteorologiche che sono proprio in punti fissi, strategici, e poi ci sono quelle private che qualcuno lo mette in rete e ti connetti. Quella del Lido Titanic è privata, quella che c'è la rotonda. No, quella non l'ho vista. Quella che dicevo prima, che io potevo muoverla, praticamente era, sai dove c'è la scuola? Dell'Ipsia ad Alghero. La scuola? Ipsia. Dimmi più o meno dove rimane. Più o meno ho visto dove c'è l'ospedale. Era proprio sopra quella scuola che c'è di fronte, c'è a fianco all'ospedale civile. Addirittura se tu la passavi verso l'incrocio, lì c'è un bivio, vedevi anche la gente, ma chiarissima, infatti secondo me l'hanno eliminata per quello, perché violava la privacy. Sì, già lo so, ormai il discorso della privacy non... io sono favorevole a metterle da tutte le parti le telecamere, così qualche cosa criminale diminuisce, qualche attività criminale, qualche furto, qualche incidente, perché molti incidenti, è capitato anche a me in officina, grazie a Dio c'erano le telecamere, gente che se ne è fuggita o che ha causato incidenti anche gravi, e si è preso la colpa a uno che non ne aveva, eccetera, eccetera. Sì, come dici tu, non farebbero male, un sacco di danni si potrebbero evitare, e qualche malvivente si potrebbe anche catturare, visto anche quella macchina che hanno bruciato da poco ad Alghero. Sì, ma allora adesso hanno reso obbligatoria la scatola nera nelle macchine di nuova produzione, non di nuova, cioè di nuova costruzione, non di produzione. Per dire, se tu oggi progetti un appunto, per dire, progettata oggi, quando vai a chiedere l'autorizzazione all'ispettorato, eccetera, eccetera, devono avere la scatola nera per legge. Certo, se una macchina acquistata oggi, però un progetto di 5 anni fa, non serve a niente. E stanno proponendo di dotare tutte le macchine, molte macchine di certi livelli ce l'hanno già, le telecamere sullo specchietto retrovisore, in modo che registrano anche attività di cosa, anche soprattutto per discorsi assicurativi, di gente che fa frodi, che si inventa incidenti, eccetera, eccetera. Già con la scatola nera è molto molto difficile fare dei camuffi, però con la telecamera ti può essere utile in questioni di emergenza, eccetera, eccetera, perché certe macchine hanno il connect, tu schiacci questo tasto di emergenza, automaticamente le immagini tue vanno a finire in un server di vigilanza o di polizia, non so quello che è, e se c'è un avvenimento criminale o cosa del genere, un atto, un qualche reato, automaticamente va a finire a queste attività di controllo e possono intervenire. Già in America quasi tutti sono dotati di telecamera nello specchietto, sì. Infatti tutte quelle trasmissioni che mandano quei video allucinanti sono tutte girate, riprese con quelle telecamere lì. Vediamo un po' se Luca c'è. Sì, sono qua, mi sto guardando un po' più lì, ma ero vicino. Ma c'è anche la Juve stasera? Sì, sta già giocando, con la Lazio, Juve Lazio. Io ormai devo andare, è finito il campionato. Cazzo deve andare, l'altro dovrebbe cercare di vincere, se andare in Coppa UEFA. Adesso è un casino, ma secondo me sto vincendo il Milan quest'anno, non ce la fa più l'Inter, ormai. Dopo quando ha passato la partita che si è fatto l'autogol, per carità, cazzo. Non me lo ricordare. E chi gira, secondo me, è già l'Inter di vincere lo scudetto. No, non ce la fa più secondo me. Guarda, io sono milanista, nel senso non sono legato, ma tifo il Milan, però la squadra che ha meritato di tutti è il Milan, che è quella che ha avuto più torti di tutti, perché se gridavano quei tre punti, solo tre punti dallo Spezia, che di lì hanno rovinato una partita, bastano solo qui, poi non parliamo di autogol, perché Adanovic li ha salvato tante di quelle partite che non abbiamo idea, naturalmente qualche errore l'ha fatto anche lui, però il Milan secondo me, anche se non è la più forte, perché il più forte quest'anno è l'Inter, e anche la Juve se gioca, però gioca andando a gara. L'Inter è la squadra più forte in assoluto, come rosa, come cambi di giocatori, eccetera. Però il Milan, mutu, piano piano ha fatto i risultati, ha perso punti magari con squadrette piccoline, però lo scontro diretto sarà vinto di fortuna, quello che vuoi tu, però è la squadra che merita. E io ho paura, anche se sono milanista, che è difficile domenica col Sassuolo, perché il Sassuolo non gli regala niente. Ma infatti, poi c'è Inter, con chi è l'Inter? Con la Sampdoria. Con la Sampdoria, ma non so, se perde Futida, di un punto, e se lo vince l'Inter lo scudetto. Sì, anche col pareggio passa il Milan. Allora, l'Inter deve vincere per forza, in ogni caso, e sperare che il Milan perda. Atalanta non era semplice. No, aspetta, allora, se vince l'Inter va a 1 più, se il Milan pareggia, sono pari, a pari punti. Sì, ma con gli scontri diretti passa il Milan, capito? Ah, ecco. L'Inter deve solo vincere e sperare che l'Inter perda, mica l'Inter, che il Milan perda. Il Milan rimbalza anche un punto e teoricamente può anche permettersi di perdere se l'Inter pareggia. Ho capito, vabbè. Ormai è andata così, dai. Purtroppo se ne ha mangiato un bel po' di cose, di partite, che poi ce le ha regalate, ecco, perché sennò questo là sarebbe stato dell'Inter lo scudetto. Occhi chiusi. Ha fatto 7 punti in 7 partite, lì ha perso il campionato. Avanti Antonio. Cazzo, ma vedi che un Cagliari se farà di Serie B? No, ancora no. Quasi. Se perde domenica è futita. Con chi è? Con il non mi ricordo. Con Venezia deve cercare di vincere per forza e sperare che la Salernitana non vinca, perché se vince la Salernitana, anche se vince è fuori, deve sperare che la Salernitana pareggi. Venezia è fanalino di cosa, no? Però non so con chi gioca la Salernitana, boh. Sta vincendo la Juve 1-0, segnato Vlahovic, nuovo acquisto. Ah, Vlahovic, si chiama? Vlahovic. Ah, Vlahovic, sì. Dove scendiamo? È dalla Fiorentina. Forte però, c'ha 22-23 anni c'ha un ragazzo, anzi 22, è veramente forte, è un lottatore, mi piace troppo. Sì, se rimane un po' più umile magari ancora meglio, l'importante è che non si monti la testa. Ma allora io ti devo dire una cosa, non è molto montato, anzi si è reso conto che con la Fiorentina era una prima donna e Mari poteva permettersi certe cose, con la Juve non andava nessuno a batti perché ci sono campioni più forti di lui, e gente che ha giocato campionati del mondo, gente che ha vinto Coppa dei Campioni, per cui deve stare attento a come si muove. Mari in altre squadrette poteva fare il fighetto, però la Juve non sgarri, se no sei fuori, basta vedere Dybala. Anche Dybala mi piacerebbe. Mi piace come giocatore, sì, però dice più gladiatore, un combattente puro. No, mi piace anche a me come giocatore, l'importante è che rimanga umile, ho detto. Sì, come dici tu, lì alla Fiorentina la squadra era tutta per lui, qua invece il posto te lo devi fare tu, Eh certo che sì, il problema sono i procuratori di questi qua. Questi paesi dell'est sono abituati alla povertà, per cui se li facevano il stipendio basso andavano a... Poi si mettono i procuratori e rovinano il calcio. Basta vedere cosa è successo con Donnarumma, Lukaku e compagnia cantante. Anche Lukaku ci vorrebbe rientrare, uscì. Guarda, Lukaku, diciamo, l'unico errore grande che ha fatto è che lui ha detto che è la squadra dei suoi sogni, la mia maglietta, la mia cosa, qua, e poi si è venduto per quattro denari, come si dice in giro. Lui doveva starsene dritto e andarsene come se non doveva andare, come avevano fatto altri giocatori. Invece ha illuso gli interisti dicendo io non mi muoverò mai dall'Inter, rimarrò qua, a vita, sto troppo bene, la città, e invece se n'è andato. Quella è la figura brutta. Adesso non avrei avuto... Non è che regalo. Sì. Come si chiama l'attaccante che adesso sta giocando col Milan? Ma il campione di karate. Ibrahimovic, aspetta, c'è qualcuno che chiama sotto. Avanti che vuole entrare. Ho sentito CQ, vabbè, non è a voglia. Ibrahimovic intanto gioca di 5 minuti e ti tiene tutto l'attacco da solo. Protegge il pallone, non gliene prende il pallone. No, per dire, lui non ha nessun attaccamento alla maglia, lui è un professionista, è un giocatore. Chi lo paga meglio, lui ci va. Magari Gisho, Lukaku. No, Ibrahimovic. Ah, Gisho, ma sei dai. Comunque è forte ancora, non ha sorte. Tu conta che c'ha un sacco di anni, però se la togli così te la mosca dal naso ancora. A parte che ti dà sicurezza ai compagni di squadra, non si avvicina nessuno a fare prepotente, che sanno che buscano. È una, come dice, un allenatore in campo, ahimè. E che lui dà i consigli anche al coso, al mister, a Pioli, che è un signore, veramente un signore, a me mi piace per quello, perché non si è mai lamentato. Inzaghi, Gasperini, Mourinho, Spalletti, sempre a lamentarsi. Pioli, tranquillo, quando ha preso quei 3 punti con la Spezia, non ne ha fatto una storia, è andato dall'arbitro, che dice stava piangendo, se l'hanno rimborato, cioè, ma che fa una cosa del genere a Mourinho, o a coso, o a Spalletti, o a Simone Inzaghi? Anch'io ho sentito break. Ehi, Lupo Grigio, io ti ascolto Pio Pio. Caffa, qua sei 7, ma ti ascolto, saluto il Lupo Grigio. Stamane in piglia andato. Ma io lo sento quasi 7, ma non capisco quello che sta dicendo. Ma io ascolto anche 9 certi giorni, come è così basso? Stava parlando, io non ho capito cosa hai detto. Anto, tu l'hai sentito? No, avete sovramodulato. Cosa c'è Lupo Grigio? Caffa, l'hai capito tu cosa hai detto? Ti sento molto nel QRM. Ho capito che, non so, da quando tutte le antenne vogliono... No, negativo, dice, secondo lui ha sentito una nuova, non so se è una legge, una proposta di legge, che tutte le antenne devono avere la massa a terra, le antenne sul tetto. Va bene, sai qualcosa? Assolutamente no, chi l'ha detto questa cosa? Lupo Grigio, da chi l'hai sentito? A parte la Marta è cortocircuitata, per cui questa cosa è una grande fesseria. Ci sono delle correnti diverse, qualcuno dice di sì, altri di no. È consigliato la maggior parte delle volte di non mettere nessuna massa a terra, perché poi ti crea degli scompensi, di rientri, eccetera. Da chi l'ha sentito Lupo Grigio? Lupo Grigio, da chi l'ha sentito? Ah, ho capito, è un vecchio ricordo di quando andava lui alle industriali. No, mi hai fatto anche preoccupare, dai. Quindi, tutto ok. Comunque ben sentito Lupo Grigio. Avanti, Luca. Non so se mi ascolta a me. Avanti Lupo Grigio, mi ascolti? Ah, non ti preoccupare. Se vuoi intervenire non c'è problema, già siamo qua. Un po' basso sei, Sempre nel solito QTH, però non intendo più. Adesso si conferma, è nel solito QTH. Io lo sento, Santiago 0,8. No, qua arriva a 7, ma arriva nel QRM. Cioè, molte volte è un po' così. Sì, si ha detto che si conferma, ha detto. Comunque, sentite una cazzata, no? È impossibile che, cioè, no, già è cortocircuitata. Ma sia la manto, ma anche la ringoccheria è così. Ma lì cosa basta un, come si chiama, una boomerang, come quella mi hai inviato tu, Antu. Un palo da 1 metro, la metti in terrazza, sono un'altra spada. Comunque, qualunque antenna, quando ti entra il fulmine non c'è niente da fare, puoi fare quello che vuoi, puoi staccare il cavo dall'antenna e metterlo in terra, sono centinaia di migliaia di volt e centinaia di migliaia di ampere, per cui ti fulmineggia tutta la casa, perché si trasmette dal pavimento e te ne entra anche nella stanza tre stanze diverse di lontananza, per cui lasciamo perdere, bisogna essere solo fortunati che non entri il fulmine, perché non c'è niente che lo possa fermare, solo il parafulmine che ti scarica l'aria, arriva l'aria e la scarica da un'altra parte, per cui non c'è nulla da fare. Ci sono quelle, come si chiama, quegli scaricatori che fanno con le candele delle macchine, qualcosa del genere, ma una volta che entra fa danno, anche se non ti cade sull'antenna, ti cade vicino a pochi metri, fulmine a quanto c'è. Chiedeva Fabrizio cosa le ha combinato, gli è esploso il microfono, è esploso, non parliamo di dire, e non era scaricato da lui il fulmine, vicino a lui. Io ho qua la fortuna di avere il Sacro Cuore che ha una bella altezza rispetto a noi, là. Quindi è probabile che venga tratto dal parafulmine che c'è sopra al campanile lì. Io sono tornato in chiesa qua. Tu devi sperare che vicino a te ci sono dei palazzi alti, che magari hanno qualche antenna a scarichi di lì, però se ti scarica anche a 50 metri, 100 metri, ti crepa quanto c'è, perché l'energia che sprigiona è una cosa da paura. Magari si potesse accumulare e risolveremmo tutti i problemi di energia nel mondo. C'era quello Tesla che ci aveva provato, però l'hanno ammazzato. Per cui lasciamo perdere. I fumi dobbiamo sempre sperare che non succeda niente. Va sulle punte, il punto più in alto, soprattutto se siete in zone di mare, di lì vi dovete preoccupare, che di lì appena bene anche dicono, la canna in carbonio non è conduttrice, è proprio avvicinati. No, proprio la canna in carbonio è pericolosissima. Eppure non è il discorso, allora il carbonio non è conduttore di corrente, però attira i fulmini perché c'è una punta, e quello è il problema, perché tu la puoi fare anche in coso, in plastica, se ti scarica di lì vicino il fulmine, cosa ne sai? No, infatti anch'io quando vedo che c'è attività temporalesca, pigia di bene, come si dice, io a casa. Guarda, io adesso c'ho un'antenna da piazzare, anche nella pesca, l'ho ritirata l'altro giorno, sabato proprio, ed è 10 metri, 10 metri di spiccioli, fatta proprio, costruita su misura, non è di quelle costruite come la potevo fare io. Eppure il terrore mio ha detto, che cazzo, se arriva il fumo, te lo prendi, mi hanno detto. Per quale frequenza? Tutte le HF fa, 5 bande, cioè tutte, dagli 80 metri ai 10 metri. Una bella pesca, 10 metri, vabbè anche la mia è 8 metri, la canna, più il manico. Questa c'è di buono che la metti in terra, cioè la devi mettere in terra, non devi sollevarla. La bellezza di questa antenna è questo, è non c'è una configurazione particolare, l'ha fatta questo ingegnere, e tu devi cosa fa questo, cosa collega con questa antenna, mi sono spaventato, cavolo, e ci ha preso la patente insieme a me, e ha già quasi finito tutti i country, questo qua, e poi ne ha un'altra autocostruita che la paura, cioè la vedi, dici, ma che cazzo di antenna strana è questa, eppure collega tutto il mondo con questa antenna. Ed è cortocircuitata, perché anche la mia è cortocircuitata, Allora questa tu fai contro la canna pesca e c'è diciamo il polo centrale esterno, lo fai passare fuori, poi c'è una bombina particolare dentro una scatola che ha fatto con la stampante 3D e poi c'è un filettino che lo deve attaccare a massa, questa la devi mettere in un punto di massa, e poi c'è una bombina fatta con il RG58, questo come per rientro di RF, in un tubo di 10 cm devi mettere 12 spire e poi lo porti all'apparecchio, è micidiale con l'antenna. Quando mi ha fatto vedere i rapporti, tutto il mondo, ma crepa gente con antenne super direttive, dico, c'è una resa da paura, quando l'ho vista non ci volevo credere, eppure mi ha fatto vedere, ha preso la patente insieme a me, questo qui è un ingegnere elettronico, questo sta sempre progettando e costruendo, quando l'ho vista ho detto che cazzo di cosa, ma poi deve il lavoro, la perfezione del lavoro, questa scatola che c'è all'interno del malumbo, cioè ma la cosa sembra, tu non te la cogli, io pensavo l'avessi fosse comprata, talmente è fatta bene le sigillature, cioè proprio non vedo la differenza da una cosa comprata, è perfetta. E con la stampante 3D se sei bravo anche progettando, fai un sacco di lavori, puoi fare tutto praticamente, puoi costruire la bobina, qualsiasi cosa, anche quella fare per, come dici tu, per fare l'avvolgimento del ritorno della frequenza. Per esempio la mia c'ha 16 giri con un tubo da 6,5 cm. Sì, no, ma ne ho fatte con qualche antennina, però fatta così non l'avevo mai vista. Poi c'è questa che scansione, questa antenna che non conosco, anche su internet non c'è niente di questa configurazione. Questo è un ingegnere elettronico e ingegnere informatico. Tutte calcolate con programmi su computer, progettate da lui, cose. Ecco, non l'ho fatta con l'antenna, ha detto questa non ce n'è, questa verticale è micidiale. Che poi con pochissima potenza, lui non è a potenza, non è amplificato, non ha niente, ma buca stazioni molto molto più potenti, infatti non ci credono quando è. E poi c'è questa, si chiama Billy Sound Build, un nome strano c'ha questa antenna, ma è vista, è come una cubica però montata in orizzontale, ma c'ha una resa da paura. Sicuramente è un granietto questo qua, era un po' Luca. Eiaia. Ah, così è roba, se stacchi l'antenna entra lo stesso, fa danno. Certo Luca, caro, ma tu ne hai idea cosa vuol dire un'energia di coso? Ma tu la candela l'hai vista? Facciamo un esempio della candela, la scintilla della candela l'hai vista? Sì. Allora quelli sono 20.000 volt, però sono pochissimi milliampere, ma delle cose impercettibili. Tu fai conto, non 20.000 volt, centinaia di migliaia di volt è quella scintillina che tu vedi che si propaga in pochi millimetri del coso della candela, li metti centinaia di migliaia di ampere, tu fai conto come scorre questa corrente in terra nel pavimento. Ma tu per dire, quando uno è in campagna dice mi ha bruciato, c'era un temporale a 2 km e mi è partita, ha scaricato a 2 km e mi è partita la pompa del pozzo, mi è partito il televisore, da quelli si va per coso, come si chiama, per coso elettrostatica, passa nel terreno tutto quello che trova a prendere. Vabbè, grazie a Dio qua non si è mai bruciato niente, posso dire mai. Qui per sicurezza la gente ne le stacco, poi robe se entra e fa danno, pazienza. Io so anche da Giulio che gli aveva bruciato anche il computer. E che a Fabrizio gli ha preso fuoco la casa, a me, non stiamo parlando di giocattoli, gli ha preso fuoco la casa, il pavimento in coso, gli ha fatto dei danni, non pare, oltre che le radio, gli ha bruciato tutto e non è caduto sopra l'antenna, vicino all'antenna. Cavolo, è un casino. Sono molto pericolosi. Avanti Antonio, ci sei. Tanto se gli avrebbe caduto sopra l'antenna è stato di dolore, davvero. Avrebbe sfondato il palazzo. Sfondato il palazzo. Allora erano i punti, giuro, eravamo al campo di calcio, c'era un coso, un cipresso alzato 20 metri. L'ha preso il fulmine, l'ha spaccato in due, proprio spaccato, l'ha aperto in due, incenerito, nero, cioè molto istantaneamente il coso. L'ha aperto in due, proprio spaccato. Cioè tu pigli un'accetta e lo tagli in verticale, un cipresso di 18 metri, l'ha messo in due. Qua comunque io sono pieno di chiese, penso che i parafulmini ce li abbiano. Ma non è detto, magari c'hanno, molte volte non c'hanno neanche i parafulmini, c'hanno la gabbia di Faraday, se per dire vai dai carabinieri alla finata, c'hanno quella specie di piattina tutto in giro, non so se l'avete mai vista, quella lì protegge tutto l'edificio, giù nelle ponti ripetitori della Rai, di Mediaset, di lì c'hanno la gabbia di Faraday, è una specie di coso che anche se cade il fulmine non fa niente. Va a scaricare a terra, però come dici tu? Protegge al 100%? Non lo so. Certo, come la Torre Eiffel, certo, di lì entrano i fumi, non so, ogni anno quanti ne entrano nella Torre Eiffel a Parigi, qualche decina ne entrano. È come se isolato, come quando ti cade nella macchina, se ti cade, vabbè, nella macchina se ti cade, non dico che non ti fa niente, però sei protetto perché sei isolato dalle gomme, però danni già te li fa all'interno, se c'è qualche oggetto metallico magari riesce a passare, se c'è una collanina al collo, è capitato che gente dentro la macchina è riuscito a bruciarsi, però diciamo a 99,9% si è protetto, ma stiamo parlando di impianti della Rai, di Medias, di quelle torri di lì, la finanza c'ha un bel impianto di coso, sono obbligati a farle quando sono, gli ospedali c'hanno la gabbia di Faraday, cose dove ci sono attività importanti, perché il parafulmine da solo, se a un certo punto ti aiuto. No, Biancola. Sì, è una gabbia fatta in piattina di rame praticamente, che corre sulle parti più alte diciamo del palazzo, nei perimetri. Non le avete mai viste nelle scuole, sono delle piattine che vanno tutto in giro, come avvolge tutto il palazzo e poi c'è verticale, c'è questa piattina e c'è un picchetto, un punto di scarico di lì, e quello è il sistema più efficace. Sì, sì, l'ho visto. L'ho fatto vedere qualche volta alla televisione quel tipo, a quei programmi tu puoi svolare, come si chiama, dove fanno vedere il Guinness dei primati, quel tipo che arrivavano delle scariche allucinanti, ma di migliaia e migliaia di volte, li mettevano questa gabbia all'esterno per proteggerlo e scaricava fuori, non riusciva a penetrare. Una volta stavamo passando una macchina operatrice sotto la linea di Sirio, no? Dell'alimentazione di Sirio, c'era una distanza di circa 40, mi sembra 50 centimetri, si è creato un arco tra il cavo e la gru, diciamo, la gru che non era in posizione di riposo, i tubi dell'alta pressione dell'olio sono esplosi, fortunatamente all'interno lui ha sentito solo la botta, allora, l'esplosione e basta, lui all'interno della macchina non si è accorto di nulla, diciamo, dai. Non ha preso scossa. Ma lì stiamo parlando di migliaia di volt e pochi ampere, qua invece stiamo parlando di centinaia di migliaia di volt e centinaia di migliaia di ampere, cose da paura, cioè tu prova a toccare una batteria, l'hai visto Luca, una batteria di macchina, prova a toccare positivo o negativo, si fa con la scarica di lì che ti incenerisce, l'hai visto, se tocchi con due pezzi di filo li sciogli, in un attimo ti sciogli, tu fai conto, non la batteria, che la batteria avrà una capacità di 500 ampere, cose del genere, tu fatti conto, una cosa come quella però enorme, con tensioni altissime, e cosa ti incenerisci? Luca ha chiesto bianco, mi sa. Davanti Antonio. È pericoloso veramente. Cazzo esplosi tu, beh, minchia. Tu pensa che com'è allucinante. Infatti mai metterti sotto gli alberi, lo dicono sempre, quando ci sono temporali, meglio un campo aperto. Ma io mi ricordo quando ero piccolo, ma mi ha appiccicato lo che c'è un gatto drogoso. Non male che ha scaricato da un'altra parte, se no mi avevi ammazzato la volta. Scusate, sto sbagliando, un po' di stanchezza mi sta entrando. Non sono belli da vedere, da fotografare se ci riesci, caspita. I più pericolosi sono i temporali estivi, che sono molto bassi come altezza, quelli invernali diciamo partono ad altezze molto più alte, le nuvole che producono questa energia sono molto più in alto, ma quelli pericolosi sono di d'estate. Io mi ricordo un'estate, ero a Giave dentro casa, io in vita mia non ho mai visto un temporale così forte e così potente, sembrava che avesse la casa, eravamo dentro casa tipo terremoto, un'acqua è durato 10 minuti, ma 10 minuti di bombe, una cosa mai vista. Quando è basso non te ne accorgi, minchia, davvero, stiamo dire che stiamo buttando giù la casa. Ma anche qua, anche qui, in questa zona, che ho sentito i brutti temporali qui a Sacro Cuore, anch'io cerco di staccare anch'io le antenne, però dici tu, non sei al sicuro. Non esiste, quando entra il fulmine non c'è niente da fare, ma non che non c'è questi sistemi qua con le gabbie, e buh, solo in quel caso lì, per dire, ma qua ci sono apparecchiature, anche se ce lo stai, lo sai quante volte lo staccavo, più che altro devi stare attenti anche alle cariche elettrostatiche che si generano nel temporale, anche se il temporale è lontano, ci sono dei campi elettrici nell'aria, tu non ti è capitato mai che scendi dalla macchina, vai a toccare la porta del cancello e te c'è la scintilla, quello è un campo elettrostatico, un'energia elettrostatica caricata nell'aria, e queste piccole energie se ti entrano nell'apparato, io per quello più che altro lo stacco in quel fatto lì, ho detto, perché sono tensioni alte, però pochissimi milliampere quell'energia che c'è di lì, però è capitato togliendo nel coso dell'antenna e ti fa la scintilla, non so se l'avete mai visto. No, mai visto, però mi dicono infatti sempre di scaricarli prima i PL, no? Prima di inserirli. E quello è consigliato, infatti ci sono degli scaricatori, quel lavoro che mi ha fatto, che mi ha detto di fare, serve per scaricare questa energia statica che si genera nello spazio, soprattutto d'inverno, quando ci sono i temporali, l'umidità, il coso, è come che c'è i piedi bagnati per toccare la spina, c'è quella specie di scarichina, non so se l'hai mai vista, calcolo se è fulminato, se non c'hai una bella massa a terra. Quando leggi questi scaricatori, può essere che abbia letto a gas, può essere? A gas? Non mi ricordo, ho letto qualche articolo, scaricatori a gas, però non so se fossero riferiti diciamo al mondo degli apparati. Guarda, ho sentito parlare anche io, però in alta frequenza, in questo genere di cose non lo so se sono adatti, se possono avere dei problemi. So per certi tipi di macchinari vengono messi per proteggerli, però in HF, cioè in male, diciamo, telecomunicazione non lo so, non ne ho mai visto. Ci sono degli scaricatori proprio che c'hanno tipo, c'era un progetto di nuova elettronica di anni fa, mi pare anche Giulio me l'aveva mandato una volta, però l'avevo già visto, con delle candele, mettevi delle candele di macchine saldate insieme, due o tre candele, fatto un sistema, le mettevi tipo collegate in coso, in serie, il cappuccio, e poi li attaccavi al PL, non so, facevi un sistema di coso per interrompere e scaricava l'energia. Lo stesso sistema la utilizziamo, me l'ha detto un amico, un tecnico, per gli impianti ad alta fedeltà, per le frequenze parassite, perché ti bruciavano i tweeter, per evitare questo facevi una specie di scaricatore con una lampadina particolare, ti scaricava questa energia perché ti faceva bruciare i tweeter. Sono delicati i tweeter, caspita. Purtroppo quando c'è corrente elettrica bisogna stare molto attenti, e soprattutto se ci sono dei gas esplosivi, peggio che mai. Quante volte accende l'interruttore, c'è il gas aperto, quanta gente si è ammazzata. Prima addirittura passava anche il motorino del frigorifero, prima quando scattava il motore c'era tipo le puntine platinate, tipo il relè che c'è in questo vecchio valvolare. Ma allora noi in certi tipi di attività dobbiamo avere le lampade antideflagranti, nelle navi sono tutte antideflagranti perché ci sono dei gas, sono quelle lampade, non so se le hai mai viste dentro questi involucri, per dire neon parliamo, sono tutti chiusi, stagni, cioè li puoi buttare sotto l'acqua, non succede niente, e non fanno le scintille, perché il problema sono le scintille, adesso stanno facendo tutti i motori senza, come si chiama, senza spatole, perché hai visto quando ti fanno quelle scintelline, i trapani e cose del genere, in certi tipi di lavorazione sono vietate, non le puoi usare, se vai per dire alla petrochimica devi usare tutti questi tipi di apparecchiature antideflagranti, gli impianti e poi le strumentazioni come si chiama, senza diretta, cioè tutti i trapani, le molette senza spazio, perché generano scintille, a parte vabbè le scintille che può generare la moletta di per sé tagliando qualcosa, però di lì basta che schiacci il motorino parte già la scintillina. Sì, mi ricordo una volta proprio qua vicino c'erano le cisterne di Carlini, quella che vendeva olio, combustibile, cosa varia. Questi qua sono scesi giù all'interno della cisterna, adesso o che sia stata qualche scintilla creata anche dall'abbigliamento, una scarica elettrostatica, non li hanno neanche trovati all'interno, è esploso tutto. Ma lo sai che ci sono degli abiti, allora tu non so se l'hai mai capitato di notte, fai una prova su quelli in acrilico, al buio, certi materiali acrilici come gli sfreghi, sono piezoelettrici si chiamano, e fanno delle lucette, delle scintille. Sì, sono scariche elettriche. Questa è tutta un'energia statica, ecco. Tu quando te ne scendi dalla macchina, molte volte, non so se ti capita d'inverno, se c'ha le scarpe in gomma, cosa del genere, vai a toccare il cancello per aprire, tac, e ti fa l'arco di coso. Infatti prima di scendere conviene sempre toccare la macchina con le mani, apri lo sportello, tocchi lo sportello metallo e poi metti i piedi, così scarichi. Sì, qualche macchina, adesso non mi ricordo quale, che ho avuto qualche anno fa, mi dava la scarica, addirittura avevo il timore. La prima volta che toccavi lo sportello avevo paura, e poi adesso questa che c'è adesso mi sembra non mi è mai capitato. Ma io ti dico una cosa, che tu ti metterai a ridere, io nella casa mia ho una veranda chiusa, con tutto a vetri grossi però, spessi, e il compleanno di mia figlia è il 16 di maggio, mi ha fatto i propiugi per saperlo, quando era piccolina facevamo le feste di compleanno, e ci avevamo in questa specie di sala con tutti i vetri e vedevamo quei tavolini tipo da picnic in plastica, eri leggermente isolato, non so per quale motivo all'interno di questo ambiente era carico di energia elettrostatica, quando veniva a toccarmi la mano gli davo la scossa e molte volte facevo col dito perché sapevo, gli avvicinavo il dito, detto, metti il mignolo, e faceva tac, la scarica, ci vedeva la scintilla di giorno, stavo parlando quelle giornate di calde tipo di coso, i vetri creavano energia elettrostatica ed era tipo un'ampolla di vetro, una cosa del genere, si formava un'energia e tu capisci, noi non stiamo parlando di temporale, stiamo parlando di una giornata tipo oggi, calda e estiva, generavano queste energie che noi ce l'abbiamo in mezzo alla cosa, ci viviamo in mezzo, e sono cose che uno dice, ma così. Eppure il vetro deve essere un isolante, vediamo un po', Antonio? Ciao, a me. Avanti, ho provato, il caricabatterie della bicicletta elettrica, che non stava funzionando, andava a lampeggiare, gli ho dato due colpi e si è messo a posto. Con le buone maniere, dai. Ho detto, cazzo, o si fascia o si accompra. Papà! Messo a posto. Ma sono che a volte vengo in officina dalle macchine e non mi funzionano troppo, vado a frenare, con un giappotto, tac, e funziona, quelli a filamento parliamo, perché riesce a avvicinare il coso e si riconduce il contatto. Già che io sono tutto canto, guglione, che sta parecchio, cioè, ogni tanto quando non esce il pochetto per le due colpettine si rimette a posto. Dai, io vi saluto, vi auguro una buona serata, mi guardo un pezzo di partita se c'è ancora, adesso vediamo, dai. Un abbraccio a tutti, Antonio, a Luca, se rientra, e a te Roberto, avanti Roberto. Anche io mi stavo per anticipare, dai, comunque la Juve sta vincendo 2-0, è finito il primo tempo, Dybala e Morata, no Dybala, Vlahovic e Morata, allora se anche io adesso vado a mangiarmi qualcosa che ho anche un po' di fame, vi saluto a tutti, ciao Antonio, ciao Luca se sei all'ascolto, ciao Franco e tutti gli SWL o qualunque persona che stia ascoltando, ciao ciao a tutti, cuore ti apate. Ciao, sentiamo, Luca ci sei ancora, Luca, ciao, ci sentiamo, ciao ciao a tutti. Oh. ma un pezzo mi trovo un po' perché sono il tracco. Ciao. Ciao, ciao Andò, ciao Roberto, ciao. Oh, ciao ragazzi, buonanotte a tutti, Non c'ero, mi sono spostato. Buonanotte a tutti, a domani. Ciao, ciao Antonio, Franco e Roberto, ciao. Ciao Luca, ciao, buonanotte. Ciao Luca, ciao a tutti. Ciao, ciao.